con Mario Sessi, uno dei curatori di Cinema al Maxxi dal 26 gennaio al 14 aprile 2019. Mario, ben trovato. Grazie anche a voi, come al solito siete puntuali con la vostra attenzione, non vi sfugge niente. Allora, raccontaci un po', questi mesi. Dunque, innanzitutto bisogna dire che si tratta ormai del sesto anno di Cinema al Maxxi, credo che sia diventato uno dei programmi più attraenti di cinema, soprattutto l'unico che si forma con queste ambizioni e con questa versatilità all'interno di un museo. All'interno c'è quello che potrei chiamare una spina dorsale, che è il festival che è nato l'altro anno, Extradoc, che raccoglie la selezione di 5 film documentari italiani editi, cioè passati in altri festival, addirittura nelle sale, e 5 inediti. Ci sarà una platea competente di una cinquantina di persone, tra utenti delle biblioteche, giovani appassionati, addirittura quest'anno dei liceali, che insieme a una giuria ufficiale presieduta da Giovanna Melandri, sceglieranno alcuni titoli che poi gireranno nelle biblioteche di Roma. L'altro anno questo esperimento abbiamo fatto 9 volte, ho avuto, credo di poter dire, un risultato anche, diciamo, perché poi, come succede, no? Tu lo sai meglio quanto me, quando uno poi si appassiona al cinema, il desiderio di farlo vedere più persone possibile, hanno scelto 2, 3, 4, 5 titoli che sono passati anche in decine di posti. E quindi l'idea che attraverso un festival si possano fare una piccola distribuzione in città è forse la cosa più giusta, più efficace, più vera. Oltre a questo, naturalmente ci sono delle rassegne che seguono, così come abbiamo iniziato a fare da qualche anno, le mostre del Maxxi, quindi c'è una sulla strada, ce n'è una sulla fotografia che segue la mostra su Pelle, che è molto bella, che sta al Maxxi, con film come Let's Get the Boss Blanchett, che hanno una qualità fotografica, un'idea di fotografia molto precisa. E ci sono naturalmente poi quello che è un po' stato il nostro codice genetico di tutti quelli che hanno fatto e un po' inventato la festa del cinema, gli incontri con il pubblico. E qui avremo personalità come Valerio Mastandrea, come Gianni Zanasi, come Alvaro Rubacher, come Philip Gloering, che di cui presentiamo in anteprima italiana l'ultimo film che stava l'altro anno al Festival di Berlino, uno dei maggiori registi tedeschi qui dentro, uno degli autori più importanti, quello del Grande Silenzio. E poi c'è qualcosa che ci siamo inventati l'altro anno, i compleanni. Come sai, la cosa più difficile per certi versi, nonostante oggi si vedano tanti più film, grazie soprattutto ai sistemi streaming, video on demand, è trasmettere tra generazioni la memoria dei grandi film. Però proprio per questo abbiamo costruito insieme a un gruppo di Facebook che si chiama CineCult, questo formato dei compleanni. Abbiamo iniziato l'anno con le Boschi e quest'anno festeggiamo i 30 anni dell'Attimo Fuggente e i 50 del Mucchio Selvaggio, con una formula particolare per cui grazie a 5 euro si potrà entrare ma anche avere un aperitivo del film, e poi ci saranno personalità che a vario titolo ricorderanno, commenteranno e parleranno di questi film. Un altro grande importante compleanno a cui tengo molto è quello di Fuori Orario, che quest'anno compie 30 anni e probabilmente, anzi, la trasmissione di cinema più longeva, più particolare, di maggiore personalità, sicuramente più originale, ma io credo anche quella che è diventata uno blow su tutto il cinema, che probabilmente nessuno di noi avrebbe incontrato se non quelli che possono andare ai festival, sicuramente non sarebbe andato in onda. Ma al di là di questo, io ricordo che quando con Patti Smith e con Bernardo Bertolucci facevamo un incontro all'auditorium, con Patti Smith lei ci disse: ogni volta che vengo in Italia c'è qualcuno che mi dice che c'è una mia canzone che è diventata la sigla di un famoso programma di cinema. Questo per dimostrare, insomma, che dimostra quanto questo programma poi alla fine abbia addirittura travalicato i limiti dell'oceano. E più in generale, per l'appunto, tutto questo, la risposta è: cosa si può fare con del cinema in un museo? Io credo, con un pizzico di vanità, un po' di presunzione, che questo programma, se si mette a confronto anche con programmi molto illustri di altri musei, altri paesi, anche con musei anche più famosi, non abbia nulla da temere, anzi, per varietà, per capacità, e la domenica c'è anche un programma per famiglie e bambini curato come tradizione da Alice. Quindi l'idea, come al solito, è che il cinema deve essere perlustrato e battuto, diciamo così, dalla serie A in su o in giù, perché questo è l'unico modo probabilmente di amarlo profondamente. Mario, nel complesso, riassumendo, quanti sono i titoli della rassegna e poi se è tutti i giorni o ci sono dei giorni fissi? Dunque, in realtà noi per lo più lavoriamo il mercoledì, il sabato e la domenica, tranne poi degli eventi particolari che sono stati, diciamo, allestiti per delle occasioni specifiche. I titoli della rassegna, in tutto, oltre al festival, a 10, saranno almeno direi una trentina in tutto, forse qualcosa di più. Il prezzo è molto popolare, sono di 5 euro e in alcuni casi, per appunto quello dei compleanni, c'è incluso nel prezzo anche la possibilità di avere uno sconto per un aperitivo lì direttamente. L'idea è quella di rafforzare quella che ormai si è costituita una specie di comunità di amanti del cinema, ma anche amanti del Maxi, perché il Maxi è un luogo che è diventato molto attraente, un po' sexy, nel senso che è bello stare lì anche fare qualcosa di particolare, ma magari leggere un libro, studiare o prendere un caffè. E da questo punto di vista credo che in realtà romana il cinema Maxi abbia molto contribuito, ha collaborato a farne un luogo dove si va non solo perché c'è un museo, ma perché è bello passarvi del tempo fondamentalmente. Bene. E allora ricordiamo la sesta edizione di Cinema al Maxi, iniziata il 26 gennaio, andrà avanti fino al 14 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mario Sesti. Mario, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi il lupo, grazie ancora come al solito della vostra attenzione.